E quindi iniziamo, come avevamo detto, a parlare di Messico, con cui abbiamo un collegamento appunto con un compagno italiano che appunto è sul posto e ci racconterà anche che cosa sta succedendo. Ma insomma, anticipiamo rapidamente, sono in corso in realtà da mesi, ma insomma si sono intensificate in particolare nelle ultime settimane le manifestazioni dei docenti messicani che si oppongono a quella che è la riforma approvata dal presidente Peña Nieto ormai nel 2013 e di cui si richiede l'abrogazione, oltre a insomma degli aumenti salariali per i docenti messicani. E la verità poi ovviamente sui 43 di Ayotzinapa, appunto, lo ricordiamo, che sono scomparsi e di cui ancora insomma il governo messicano non dà risposte rispetto a dove siano e che cosa è successo a questi ragazzi della normale di Ayotzinapa. E appunto le proteste sono in corso in vari stati, in varie città del Messico. In particolare si sono recati una delegazione di circa 2500 a Città del Messico per interloquire con il governo, richiedendo appunto il blocco della riforma dell'istruzione. Ma ovviamente l'unica risposta che il governo ha dato è stata che avrebbero diminuito eventualmente la repressione di piazza delle proteste degli insegnanti, ma appunto non avrebbero interloquito con loro se non avessero accettato la nuova riforma. Ma appunto abbiamo qui un compagno che ci dà appunto degli aggiornamenti più freschi sicuramente. Ciao a tutte e a tutti. Ciao, prego, appunto se vuoi raccontarci insomma un po' com'è la situazione, che cosa hai anche visto insomma nella tua presenza in Messico. Beh, io non sono più in Messico da qualche settimana, comunque sto seguendo la questione. Tutto in questo momento gravita attorno alla grande marcia di protesta che si svolgerà venerdì 10 giugno, che per il Messico è una data importante, perché il 10 giugno di diversi anni fa un gruppo di paramilitari nella zona della fermata della metropolitana normale di Città del Messico uccise 120 persone durante uno dei più gravi atti repressivi nei confronti degli studenti messicani. Era una mobilitazione in appoggio alla Università Autonoma di Nuevo León e il gruppo paramilitare colpì e uccise tutte queste persone. Quindi il 10 di giugno non è una data casuale per la storia dei movimenti per i diritti dello studio e sullo studio in Messico. Il 10 di giugno di quest'anno si uniranno una ventina di organizzazioni tra osservatori per i diritti allo studio, di movimenti studenteschi e di associazioni di genitori, insieme alla SNT, in questo caso ovvero le sezioni del Sindacato Nazionale dei Lavoratori delle Educazioni, che si riconoscono soprattutto nel Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, che è la parte più combattiva, chiamata infatti in Messico da anni da tutti i media ufficiali, e quindi che hanno dei rapporti molto stretti con il potere, la parte dissidente del sindacato. La CNT ha organizzato in questo momento, è partita settimana scorsa, una carovana che è partita dal Chiapas, che attraverserà e sta attraversando 7 paesi dello Stato: il Guerrero, il Michoacán, Puebla, Veracruz e il Tabasco, prima di arrivare appunto il 10 a Città del Messico per partecipare. Ha organizzato questa grande marcia contro la riforma, contro questa cosiddetta riforma dell'educazione, che ricordiamo non ha nulla a che vedere con una riforma educativa, è più che altro una riforma del mondo del lavoro legata all'educazione, con l'imposizione di test attitudinali per gli insegnanti. Gli esiti di questi test garantiscono il posto di lavoro qualora il test si superasse, orari di lezione e addirittura la quantità di peso orari che viene presa e attribuita per la lezione. Diciamo che questa riforma educativa sulle scuole primarie, secondarie e preparatorie ricalca in parte il modello universitario, dove ricercatori e docenti devono ogni anno non tanto fare degli esami, ma garantire un certo numero di pubblicazioni che vengono valutate per poter continuare a operare all'interno del mondo accademico. Ovviamente l'assurdo di questi test non sta tanto nel test in sé, per quanto già un qualcosa di abbastanza drammatico, ma il fatto che questi test non sono assolutamente fatti per valutare realmente i professori, tanto che i test sono unici in qualsiasi parte del paese, come se per insegnare in una scuola di una comunità indigena del Chiapas o del Guerrero sia uguale a insegnare a Monterrey, capitale economica del Messico. E come sostiene qualcuno, non è solamente la capacità e la preparazione accademica dei docenti che fa bravo un insegnante, ma è anche la capacità di stare a contatto con i ragazzi, creare relazione, educare e non solo insegnare. Quindi ovviamente un test freddo è un test che serve solo a creare maggiore precarietà all'interno dell'istruzione. Contro questo quindi si stanno mobilitando da mesi gli insegnanti e le insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione. Le proteste sono iniziate a dicembre. L'8 e 9 dicembre il primo Stato a imporre e applicare questa riforma è stato lo Stato del Chiapas, dove c'è un governatore, Velasco, che è un governatore assolutamente non ben visto dagli altri partiti politici, perché è l'alfiere di questo Partito Verde, uno dei due partiti che ha rotto lo storico tripartitismo messicano. Ricordiamo che dagli anni 20 sono stati tre i partiti di potere, uno soprattutto di governo è stato il PRI, gli altri il PAN e il PRD. Ma l'avvento del Partito Verde, un partito di fuoriusciti dal PRI, che si sono spostati ancora più a destra, con all'interno anche nuclei dei gruppi paramilitari di diversi stati del paese, e Morena, la formazione creata da Manuel López Obrador, storico sindaco di Città del Messico, ex leader del PRD, ha rotto un po' questi equilibri, tant'è che le ultime due tornate elettorali hanno creato un po' una situazione molto complessa nel paese, appunto con questo Partito Verde, Morena e alcuni anche candidati indipendenti che hanno vinto stati e comuni importanti. Quindi lo Stato del Chiapas ha deciso, anche per dimostrare la sua forza autoritaria e quanto possa anche essere una garanzia in termini di mantenimento del potere, di anticipare questo esame. A dicembre ci sono stati dei grossi importanti scontri a Tuxtla Gutiérrez, scontri che hanno portato all'omicidio di un maestro l'8 dicembre del 2015. Perché? Perché dal 15 maggio è iniziato questo sciopero senza fine della CNT? Perché dal 15 maggio in poi, fino a fine anno, saranno in tutti gli altri stati, ci sarebbero dovuti essere questo tipo di valutazioni. Dico sarebbero perché, per esempio, il caso del Michoacán è un caso in cui il giorno delle valutazioni oltre l'87% dei maestri non si è presentato a questo tipo di esame, oltre a non andare a scuola. Dopo quel giorno c'è stata la prima risposta di Aureliano Nugno, quello che potremmo definire il ministro dell'istruzione messicano, che ha detto noi non tratteremo con la CNTE, anzi chi non avrà, non si presenterà a scuola per più di 3 giorni senza una giustificazione valida, e noi non consideriamo uno sciopero a oltranza contro questa riforma una giustificazione valida, avrà prima decurtato lo stipendio e poi nel caso sarà licenziato, perché abbiamo oltre 26.000 maestri pronti a subentrare e a supplire a chi sciopera senza voler accettare questa riforma. Non da adulto e anche repressiva del governo, perché mentre io racconto tutto questo dobbiamo pensare che giornalmente negli stati epicentro di questa lotta, che originariamente erano Chiapas, Guerrero, Michoacán e Oaxaca, oltre che Città del Messico, si è assistito a sgomberi dei presidi permanenti davanti ai palazzi statali, cariche della polizia a arresti pretestuosi e politici di maestre e maestre, leader della CNT. Ogni volta che c'è stato uno sgombro le piazze sono state riprese, quindi è una lotta anche molto dura in cui la repressione sta pian piano crescendo. Se pensiamo nella giornata di lunedì in Chiapas, nella capitale Tuxtla Gutiérrez, ci sono stati nuovamente pesanti scontri con la polizia che ha sgomberato il presidio permanente, e venerdì 3 invece una manifestazione di qualche centinaio di maestri che stava provando ad andare verso l'aeroporto di Città del Messico per bloccare l'aeroporto è stata fermata da 5.000 agenti in assetto antisommossa. Quindi questo fa capire anche un po' come il governo si sta preparando alla marcia del 10, e questi sono i numeri di fuoco che mette contro i maestri. Stavo dicendo, di fronte a queste prime posizioni molto dure del governo, la lotta invece che fermarsi si è amplificata. Ormai sono tantissimi gli stati dove la CNT ha blocchi del traffico, presidi fisse, marce costanti, oltre che una chiusura quasi totale delle scuole e della didattica. Ai 4 stati iniziali si è subito aggiunto il Tabasco, dopodiché il Veracruz, lo stato de Puebla, adesso Jalisco è importante perché ha alcune città molto grosse, e si sta aggiungendo anche Nuevo León. Praticamente tutti gli stati del centro-sud del paese in questo momento sono mobilitati, e quindi di fronte alla chiusura del governo non c'è stata una smobilitazione, ma c'è stato un allargamento a macchia d'olio di questo tipo di forma di protesta, che è una forma anche molto radicale. Ricordiamo che la CNT nasce nel 1979 in Chiapas come ala radicale all'interno del Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione. La protesta è talmente forte e centrale che in questi ultimi giorni anche una parte, quella diciamo non del tutto legata alla CNT, dell'SNTE, si sta invece comunque organizzando per appoggiare i maestri, tanto che la marcia di venerdì e anche la carovana di Pullman che si è mossa dal Chiapas la settimana scorsa è stata promossa proprio come Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione. In questo momento si ha un momento di stallo, perché di fronte alla radicalità della proposta e al silenzio e alla continua risposta da parte di Aureliano Nugno alla volontà di non voler dialogare con i maestri, si stanno formando delle posizioni intermedie che sono quelle date da la stampa, quella forse potremmo dirlo un po' più progressista, ma in generale la stampa sta iniziando a sostenere che la posizione del governo non porti da nessuna parte. E questo è interessante perché la stampa nell'ultimo periodo, col ritorno al potere del PRI, è un potere assoggettato totalmente al Partito della Rivoluzione Istituzionale, tanto che il giornale che per anni aveva dato spazio ai movimenti sociali e allo zapatismo come la Jornada, a novembre ha addirittura pubblicato un editoriale di Enrique Peña Nieto, presidente del paese. Quindi la radicalità e anche il senso profondo di questa protesta in qualche maniera sembra che stia ibridando gli ambiti con politici. Ricordiamo anche una cosa molto importante, perché dal punto di vista sociale questa protesta dei maestri viene vissuta in maniera positiva con studenti e genitori che l'appoggiano, non solamente nel merito, quello che dicevo prima, che insegnare non è solamente una questione di nozione ma anche di qualità, e non è un test che lo può definire, anche perché dietro a questa malcelata riforma c'è una volontà, ovvero quello di snaturare un articolo della Costituzione. In Messico, come risultato della rivoluzione iniziata nell'11 e finita nel 20 e soprattutto del pezzo rivoluzionario guidato da Villa e Zapata, ci sono 3 importanti articoli: quello sulla pubblicità dell'energia, che è uno anche degli aspetti delle riforme costituzionali che Peña Nieto sta forzando e pian piano portando a casa; un altro articolo è quello dell'impossibilità di ricostituire il latifondo all'interno del tessuto sociale e dei campi messicani, e l'altro è quello che la scuola è laica, gratuita e pubblica per tutti. Quando dico laica e gratuita e pubblica, intendo che anche i libri di scuola non sono una spesa per chi va a scuola, è tutto completamente gratuito, dalla primaria all'università. Qual è la differenza? Che per esempio per accedere agli studi universitari bisogna superare le scuole preparatorie. Le scuole preparatorie sono molto dure e si lega alla possibilità di accedere a un'istruzione pubblica di qualità. Ovviamente la scuola pubblica in Messico è da anni attaccata e quindi in molti casi, in molte zone del paese non esiste una scuola pubblica realmente di qualità. Questa riforma vuole andare ancora di più a colpire nel merito, perché chiaramente aumentando la precarietà degli insegnanti, riducendo il numero degli insegnanti, dando più ore, più soldi a pochi che insegnano a più classi, si cerca di destrutturare anche dal punto di vista proprio pubblico la qualità della scuola pubblica, in maniera tale che chi può scelga di fornirsi e andare nelle scuole private. Scuole private che in Messico non sono apertamente finanziate, ma che ricevono sponsorizzazioni e altre forme di finanziamento indiretto, che così crescendo di numero, in numero e in iscritti, possono diventare la scusa per riformare questo articolo della Costituzione. Questa cosa qui è stata accolta e capita, e quindi dietro al movimento della CNT c'è proprio la difesa di questo articolo, che è un articolo fondamentale. Ricordiamo che l'attacco all'istruzione in Messico ha sicuramente come forma avanzata questa della riforma educativa, ma è anche strisciante e attraversa uno spazio, l'Università Nazionale Autonoma de México, la più grande università del Latino America e una delle scuole più d'eccellenza del mondo, dove il ritorno al potere del PRI e di Peña Nieto si sta legando alla lotta per imporre il nuovo rettore. Il nuovo rettore è stato proclamato, essenzialmente deciso dentro gli spazi del governo, questa è un'anomalia storica per l'università, e soprattutto oltre al nuovo rettore il governo sta cercando anche di cambiare i capi dei vari dipartimenti di ricerca. E badate bene che questa è una cosa molto grave, che sta generando insicurezza all'interno del mondo accademico messicano. Nel mondo accademico messicano oggi molti ricercatori non vengono protetti e tutelati dall'università nei loro percorsi di ricerca, per esempio sui flussi del narcotraffico o su chi sta dietro alle grandi opere e ai grandi progetti nel paese. In un paese che sempre più è a rischio omicidio per giornalisti e per chi fa ricerca, capite bene che questo è sempre un modello per trasformare l'istruzione e l'accademia in pura ricerca accademica e togliere l'intervento reale all'interno della società. In questo momento tutte queste lotte si stanno unendo nella lotta più simbolica dei maestri della CNT, e come ripetevo all'inizio, la giornata di venerdì sarà una giornata molto importante e delicata da questo punto di vista. Sì, noi appunto sei stato ovviamente chiarissimo, hai spiegato benissimo insomma qual è la situazione, vengono quasi automatici dei parallelismi, ovviamente con le dovute insomma differenze dei contesti, però insomma questa imposizione del merito e questo tipo di valutazione con cui vengono appunto classificati gli insegnanti e con cui si pretende di avere un controllo sulle scuole ricorda molto di quello che sta succedendo in Italia, sia attraverso la buona scuola sia attraverso insomma quello che accade con i fondi alla ricerca e le prime proposte che sono state avanzate dal governo Renzi riguardo all'università, in cui si cerca sempre più di classificare scuole, insegnanti, studenti come di serie A e di serie B, e non tenendo conto delle specificità dei vari contesti, insomma quello che dicevi anche tu prima, no? Delle scuole in particolare del sud e centro del paese, che hanno anche delle difficoltà economiche che appunto dipendono dall'assegnazione di fondi da parte del governo, verranno sicuramente vedranno dei forti svantaggi in questa riforma, proprio perché appunto non si tiene conto delle specificità dei vari contesti, di quello che insomma che accade. Ci sono appunto delle diversità, come dicevi tu, tra delle scuole piccole, rurali, di zone del sud del paese e le scuole che ci sono per esempio all'interno delle grandi città. Come appunto dicevi, la retorica anche sempre lì del merito, che ne abbiamo parlato spesso quest'anno, proprio perché è un argomento che ricorre in molti di quelle che sono le cose che sta facendo il nostro governo in generale. Appunto si vede anche qui in Messico come si cerchi un merito che però non è reale, ma che appunto faccia avanzare soltanto chi è disposto ad abbassare la testa e a sottostare a una serie di imposizioni che vengono date dal governo, quindi sia dal punto di vista degli insegnanti delle scuole primarie, delle scuole medie, che appunto non vedono soltanto l'importanza delle nozioni da insegnare ai ragazzi, ma anche di un rapporto, soprattutto nelle scuole, insomma, quelle più periferiche, quelle più piccole, un rapporto tra l'insegnante e i suoi studenti, ma anche appunto, come dicevi in ultimo, sulla ricerca e sulle difficoltà che trova chi cerca di fare una ricerca indipendente, una ricerca slegata da grandi interessi che appunto la finanziano, non ha delle belle prospettive davanti, perché appunto quello che si cerca di fare è di bloccare tutto ciò che può andare contro quello che il governo cerca di imporre. E appunto per fortuna, come dicevi tu, insomma, la lotta in Messico sta insomma raccogliendo sempre più consensi, non solo tra la popolazione, ma anche insomma in generale sui giornali, che è una cosa che insomma risulta quasi strana a un certo punto, no? Nel senso che più aumenta la repressione, qui lo vediamo, quando si ha un piccolo rialzo della repressione nei confronti di chi protesta, c'è sempre un qualche modo una fuga di chi insomma ha paura anche di quelle che sono le conseguenze, mentre in Messico, come dicevi tu, essendo quella degli insegnanti una lotta collegata con tanti altri argomenti e con tante altre istanze all'interno del paese, è una lotta che quindi sta crescendo sia tra gli studenti e i genitori, che sostengono in larga parte la lotta degli insegnanti, appunto vari movimenti che appunto si focalizzano su varie questioni, in particolare appunto, lo dicevi, della riforma, insomma del tentativo di cambiare la costituzione messicana per quanto riguarda l'istruzione. Io non so più o meno insomma quando finisce la scuola in Messico, se ci sono delle prospettive di andare avanti anche dopo la fine della scuola, anche se appunto, come dicevi tu, ora molte sono le scuole che non tengono lezione, che sono bloccate, che sono chiuse per questi scioperi ad oltranza degli insegnanti. Vorrei chiederti quali sono, oltre alla manifestazione di venerdì, se ci sono altri appuntamenti, se ci sono altre iniziative, e come ha intenzione di andare avanti questo movimento nel tempo, se vedono delle prospettive insomma di cambiamento dello stato attuale di cose. Sicuramente ci sarà, aspetteranno una manifestazione del 10 per capire come continuare, e badate bene che la manifestazione del 10 si lega alla continuità dei blocchi delle varie lotte statali, nel senso ci sarà una grossa convergenza su Città del Messico, ma i vari stati non verranno abbandonati. Le scuole in Messico hanno tempi strani, durano un pochettino più che da noi, vanno avanti fino a fine giugno, e sicuramente l'obiettivo è continuare questo sciopero all'oltranza come forma di protesta, utilizzando questa fase dell'anno, ma poi non smobilitare in estate, perché poi i risultati di questa riforma si vedrebbero dall'inizio del nuovo anno scolastico. Tutto, ripeto, in questo momento gravita attorno alla manifestazione del 10, perché l'obiettivo della CNT è quello di riaprire il tavolo di trattativa, e in base all'esito di questa manifestazione si capirà. Anche perché secondo me i media hanno questa posizione in cui iniziano a chiedere al governo un dialogo, perché si vede come la repressione fino a se stessa non sta pagando, perché la mobilitazione anzi si sta allargando. Il paese a un anno e mezzo dalle elezioni del 2018 non sembra essere pronto con tutta anche la partita ancora aperta sui 43 di Ayotzinapa o meno, a accettare un nuovo pesante atto repressivo che vada oltre a quello che sta accadendo. Quindi forse i giornali che hanno quella posizione non prettamente politica ma vicino al governo provano a spingere a una trattativa per provare a far sì che con una trattativa aperta si vada a abbassare il livello di conflittualità delle, nelle strade e nella CNTE, provando ad aprire quegli spazi che spesso si generano quando di una trattativa si parte, perché ovviamente, come sempre è, oltre alla radicalità e agli obiettivi più ampi, il tutto si basa anche su un obiettivo molto concreto, ovvero quello di cancellare questo tipo di riforma, e quindi gli ambiti delle prassi e delle lotte, sappiamo benissimo, sono attraversati da pulsioni differenti che in questo momento hanno un obiettivo comune, ovvero che mi verrebbe da dire quasi, perché ovviamente non è del tutto così, che con ogni mezzo necessario c'è una sola strada da percorrere, ovvero quella della lotta per aprire una trattativa, e il 10 va proprio in questa direzione, perché come spiegavo prima si uniscono tutte le parti di questo movimento, quelle più moderate dalla CNTE ai movimenti come quello delle scuole normali rurali che in questi mesi stanno appoggiando i maestri. Quindi si capirà molto dal 10 sera in poi. Va bene, quindi allora, visto che ci dici così, sicuramente ci sentiremo la prossima settimana, insomma, per avere anche degli aggiornamenti rispetto alla situazione, per vedere insomma se la manifestazione del 10 ha portato a delle evoluzioni, o se almeno io spero, ma anche immagino, che se non ci saranno degli sviluppi particolari il 10 avremo insomma una continuazione di quelle che sono le proteste che adesso stanno mettendo in campo. Quindi insomma, sperando che questa protesta continui così come sta andando, e che anzi insomma vada aumentando verso la fine dell'anno scolastico, e che soprattutto non veda, come succede spesso in Italia, un momento di stallo con l'estate, con insomma la fine della scuola, non veda insomma una discesa di quella che è la mobilitazione, che appunto è molto molto forte in questo momento. E quindi noi ti ringraziamo, perché sei stato veramente veramente chiarissimo, veramente esaustivo rispetto a insomma le questioni che volevamo trattare, e appunto in base anche alla tua disponibilità speriamo di risentirci la prossima settimana per avere degli aggiornamenti. Non c'è nessun problema, per risentirci settimana prossima. Ti dico solo una cosa: speranza che magari invece il 10 vada talmente bene che si riesce non tanto ad aprire una trattativa, ma una trattativa reale che porti a cancellare la legge e la riforma educativa, che credo che in questo momento sia il punto di partenza per affinché anche il movimento studentesco messicano, che in questo momento è un po' alle spalle dei professori, si possa unificare ancora di più, con vertenza anche un pochettino più magari a lungo respiro, perché come sappiamo vincere fa bene. Certo, e va bene, allora ti ringraziamo. A presto, ciao.